Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. You know the answer, so why do you ask? I'm only being nice because I want someone, something. You're like a kitten with a ball of yarn, and it's doing me in, doing me in, doing me in, doing me in, doing me in, doing me in. The more you try to erase me, the more you try, the eraser, the more that you appear. Si è aperta con un medley la seconda parte di Eclettica di quest'oggi, Eclettica che va in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni e che è altrimenti disponibile in podcasting, quindi in un altro giorno o in un'altra ora, quella che preferite voi una volta che vi siete scaricati il file. Un medley a nome Olga Bell, ma sono due brani che escono dalla stessa penna, quella di Thom Yorke, a farci capire quanto vicini siano The Eraser, il suo album solista, è In Rainbows, l'album invece dei Radiohead. È un medley dal vivo da parte di Olga Bell, che è nata in Russia, cresciuta in Alaska, ma ora vive a New York, dove ha formato un gruppo che ha come nome quello che è il suo cognome, ovvero sia Bell. Per proseguire ora invece con un artista italiano, tanto abbiamo amato qua in Eclettica, ma non solo in Eclettica, i COD, quanto apprezziamo Nano. È troppo presto per esprimere sentimenti più forti nei suoi confronti. Gli piacciono i nomi con le lettere puntate. Così era per i COD, così è per Nano. Noi ci ascoltiamo il Nano svizzero. Sono in ritardo. Che cosa c'è? So How you doing? I'm new here, and it says I'm supposed to lock up the lions or they'll eat me? Vai, vai a cercare leone da un'altra parte. Galileo? Turista. Splendeva il sole, non avendo alternative, sul niente di nuovo. Al riparo da questo, quasi fosse libero, se ne stava Murphy in un vicolo nel West Brompton. Lì, in una muda di medie dimensioni esposta a nord-ovest, che dava su una serie ininterrotta di mude di medie dimensioni esposte a nord-est, per circa 6 mesi aveva mangiato, bevuto, dormito e messo e levato abiti. Ben presto avrebbe dovuto cercare un'altra sistemazione, perché il caseggiato era stato dichiarato inagibile. Ben presto sarebbe stato costretto a prendere, a mangiare, bere, dormire e mettere le varie abiti in un ambiente del tutto estraneo. Questo era l'incipit di Murphy, di Samuel Beckett. Job. rob a bank, singing cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha cha, singing cha cha cha cha cha. Oh yeah, oh yeah, cha cha cha cha cha cha cha. Oh yeah, oh yeah, cha cha cha cha cha cha cha. Oh yeah, oh yeah. Prima gli svedesi Club 8 con Heaven e poi i mezzo italiani e mezzo tedeschi Woog Riots con King of Pop ci hanno accompagnato a quasi 10 minuti dalla chiusura del volume di quest'oggi di Eclettica. Giulio Capperdoni che sta per lasciarvi con una formazione che proviene dai sobborghi di Portland nell'Oregon, per la precisione da Beaverton, dove si sono formati nel 1999. Il nome della formazione è The Heliosequence e incidono per Sub Pop. Per Sub Pop stanno per uscire con un album il 29 di gennaio intitolato Keep Your Eyes Ahead, dal quale vado ad estrarre esattamente il brano che gli dà il titolo. C'è una particolarità per quanto riguarda questa formazione: il suono della band è completamente cambiato, il modo di cantare del cantante della band è completamente cambiato, perché ha danneggiato le sue corde vocali per una vita non proprio regolata e ha dovuto reimparare a cantare, ovviamente in un modo diverso rispetto a come cantava prima, dati i limiti che i danni alle corde vocali gli hanno imposto. Quindi se conoscevate gli Heliosequence prima, ora li state per riscoprire sotto una nuova veste. signor Hackett girò l'angolo e, nella luce che si affievoliva, vide poco distante la propria panchina. Sembrava occupata. Questa panchina, di proprietà molto probabilmente del comune o del pubblico, naturalmente non era sua, ma egli la considerava sua. Tale era l'atteggiamento del signor Hackett verso le cose che gli piacevano. Sapeva che non erano sue, ma le considerava sue. Sapeva che non erano sue perché gli piacevano. Questo era l'incipit di What? Di Samuel Beckett. Did the words ever exist? And if so, could he find them? He planned to take her home to bed someday. He'd smooth her goosebump skin while she lay. Just 10 minutes. A guilty Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 12, volume numero 3, indice, Frightened Rabbit, Electric President, OK, My Robot Friend, Nada Surf, The Big Sleep, Bell, Nano, Club 8, Vogue Riots, The Helio Sequence, Hefner. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.